A bordo campo di Dario Ricci. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. La voce è quella di Gianni Morandi, la canzone è L'allenatore, racconta proprio l'epopea, la passione, l'amore per il calcio di un uomo, di un allenatore da oltre 50 anni sulla panchina, che cresce talenti, porta i campioni a esprimersi al meglio, ma soprattutto infonde a tutti i suoi giocatori la grande passione per il gioco più bello del mondo. Carlo Mazzone si ritrova nelle note di Gianni Morandi, e che anzi Gianni Morandi le ha dedicato. Gianni Morandi, ogni volta che leggo il libro lo ricordo e sento un brivido addosso, veramente. Quest'uomo che mi ha fatto felice, guarda, sono quelle cose belle della vita che rimangono poi segnate dentro di te. Ecco, come sentite, Carlo Mazzone è un uomo che è ancora in campo. Per chi non lo conoscesse, il nostro ospite di oggi a bordo campo, 795 panchine in Serie A, oltre 1000 panchine in carriera, il decano, il maestro degli allenatori italiani. E proprio la canzone di Gianni Morandi è dedicata a Carlo Mazzone, che ora si racconta in un libro, Una vita in campo, edito da Baldini, Castoldi, Dalai, scritto con Marco Franzelli e Donatella Scarnati, colleghi del TG1. Beh, mister, tanti aneddoti, tante storie in queste pagine. Io partirei dal suo grande amore per la Roma che in questi giorni ha chiuso l'epopea della famiglia Sensi, che la portarono su quella panchina. Ecco, un suo commento a questa nuova pagina che la nuova Roma è chiamata a scrivere. C'è tanta tristezza su tutto questo, perché io sono legatissimo a questa famiglia, perché gli devo riconoscenza, mi ha dato la possibilità di fare un rientro nella mia città, la mia squadra, la squadra che fin da ragazzino ho tifoso, poi giocatore del settore giovanile, debutto in prima squadra, poi giro, vado a fare l'allenatore a destra a Manca, rientro come allenatore. E rimaniamo per 3 anni legati insieme alla famiglia Sensi, al capo, al presidente Sensi, che purtroppo non c'è più, ma lo ricordo sempre con affetto tanto, e sono affezionatissima alla famiglia. Ecco, come immagina adesso il futuro della Roma? Quale proprietario nuovo immagina per la sua squadra del cuore, mister Mazzone? Innanzitutto che sia una brava persona come la famiglia che gli ha preceduto, questo evento. Mi auguro solamente che ci sia nei riguardi di questa famiglia un bel ricordo e un grande ringraziamento. Io penso che meritano veramente qualcosa di molto importante questa famiglia, perché sono stati bravi, hanno dato tanto, sia sul piano morale, sia sul piano fisico, sia sul piano finanziario. Ecco mister, c'è una pagina del libro che mi ha colpito nel rileggerla, quando alla guida del suo Cagliari batté la Roma di quel Carlos Bianchi che l'aveva sostituita sulla panchina giallorossa, incontrò il presidente Sensi negli spogliatoi del Sant'Elia e il presidente giallorosso le disse: Carlè, mi dispiace proprio averti mandato via, scusami. E si commosse, e altrettanto feci io. Cioè, quelle cose belle che nel calcio si pensa sempre che non ci siano, invece poi quando ti trovi in queste situazioni le rivivi intensamente. Un uomo così importante, così per bene, insomma, che si abbraccia a me e si scusa, ma caro presidente, che mi ha dato la soddisfazione, mi ha fatto rendere famoso, mi ha fatto realizzare la mia storia da allenatore per 3 anni di seguito, è stato Caruccio, lei non deve sentirsi nessun rammarico. Insomma, queste sono le belle parole che io ancora ricordo sotto il sottopassaggio dello stadio di Cagliari, dove insomma stavamo andando nei nostri spogliatoi. Mister, restiamo a Roma perché l'introduzione di questo libro è scritta da un numero 10 che lei, diciamo così, conosce benino, Francesco Totti, il talento che lei ha scoperto, ha cominciato a coltivare fin da ragazzo, impedendogli di mangiare i gelati, tenendo i contatti con la famiglia perché un talento come quello non si può sciupare, va preservato e coltivato. Beh, ancora oggi col capitano giallorosso un rapporto straordinario, no? Sì, io so, quando succedono queste cose, io penso che la soddisfazione grande non è del professionista, ma è dell'uomo. Io sono felicissimo, veramente, questo ragazzo ha fatto questa grande carriera che mi auguro che la concluda nel modo migliore, veramente. Ho dei ricordi bellissimi. Ragazzo giovanissimo, 16 anni qualche cosa. Ce ne regali uno, mister, di questi ricordi del Totti ragazzino? Ragazzino, che lui ma, era ragazzino veramente, 16 anni. Successe questo, adesso racconto quello tecnico. Quello tecnico è successo questo, che noi durante la settimana già si provava l'atteggiamento tattico che avremmo avuto poi la domenica. E si simulava la stessa gara, no? E allora Meneghini, il mio collaboratore, mi ci ha messo il giovedì, specialmente quando facciamo queste partite a tema, mi ci ha messo oggi, questi avversari di domenica giocano con una punta e una mezza punta, no? E poi due esterni difensivi, insomma, gli feci un pochettino una cosa, ho detto vai di là, dal settore giovanile, da Spinosi, e digli se per piacere ci manda questi giocatori, e tra cui una volta dissi anche un ruolo, una mezza punta, una seconda punta che rientra, e mando 5 o 6 ragazzi, e dopo aver fatto la messa in azione sul piano fisico, proviamo sta partitella che era questo. I primi 40 minuti era tattica spietata, tattica attenta, volevo la massima concentrazione sul lavoro che si faceva sia dalla squadra allenatrice sia dalla squadra che allenava, e poi davo 20 minuti, facevo giocare le paste a chi vinceva 20 minuti a tocco libero e partita libera. Allora, dopo questi 40 minuti, io rimango molto sorpreso nel vedere questo ragazzo che io non conoscevo, non sapevo chi era, però sapevo che l'avevo chiesto, che era una seconda punta che rientrava. Allora io dico a Meneghini: ma chi è questo? Che ne sono, mister? Vabbè, ma il nome nemmeno c'è, vatti a far dal nome, senti, ma non fa troppo rumore, perché sennò domani sta su tutti i giornali di Roma, cioè, Roma sotto questo profilo, bisogna fare molta attenzione, insomma. E così è nata la parabola di Francesco Totti e la sua amicizia con Carlo Mazzone. Beh, mister, però le chiedo ancora, ma secondo lei Totti ha fatto bene a rimanere sempre a Roma? Lo sappiamo, lo eleva al Milan, lo volevano tutti, lo voleva il Real Madrid, non è che questo un po' ha limitato la sua dimensione di grande campione? Ma certo, ha penalizzato se stesso e ha dato tanto alla sua Roma, ma lui, il sogno suo era la Roma, e io ogni tanto quando è diventato campione del mondo, lui mi ha mandato un ricordo a me, io ho mandato a lui un ringraziamento, insomma tutto, io gli ho fatto solo i complimenti che ha sentito questo grande richiamo della sua città. Io penso che sia solamente degli bravo. Non so quanti altri giocatori con le promesse del denaro, quanti sarebbero rimasti nella Roma, perché a Roma ci sono stati anche dei momenti difficili, chiaro, no? E lui è sempre stato il primo a rispondere presente. Ma senta, questo Totti che a distanza polemizza con la Lega Nord sul tema della romanità, che effetto le fa a un romano verace come anche lei? Anche che ho pagato un pedaggio importante, quella corsa famosa sotto la curva dell'Atalanta, ragazzi, non ricordate? Sì, era Brescia-Atalanta 30 settembre 2001, esatto, 3-3. Esatto, niente, io non... Ma quella fu... Fu colpa di Baggio che giocava, sì, con lei, e fece 3 gol per il Brescia in rimonta. Sì, ma però anche lì c'è... Io non capisco questa gente... Sui romani, la romanità, c'è un astio, c'è. Io quel giorno era un derby micidiale, altro che Roma-Lazio, Brescia-Atalanta è un derby micidiale. va a vantaggio il Brescia, e poi c'è il ritorno dell'Atalanta, uno pari, 2-1, 3-1. Come vanno sul 3-1 per loro, comincia a fare dei gol bruttissimi, colpendo la mia romanità, romana di Carletto Mazzone, romano di merda, sì, scusate la parola, e figlio di Puttini Puntini, che nemmeno voglio dire. È stato di una tristezza questo coro, forti della loro vittoria, presunta tale, sono cose che rimangono nel cuore della gente, specialmente quando uno ha avuto la disgrazia, la più grande disgrazia di un uomo è perdere la mamma molto presto, e quello a me si era verificato. E adesso sono andato fuori di testa, e dopo ci sono stati tanti commenti politici, questi benedetti politici, ma perché non si danno una regolata allora nei loro regolamenti, nel loro modo di vivere, nel loro modo di fare grande l'Italia, non quella che gioca a calcio, quella vera, quella che dovrebbe essere l'obiettivo primario, e invece vanno a cercare pubblicità attraverso il calcio, toccando dei personaggi importanti come Francesco Totti, che anche lui deve capire che deve fare molta attenzione quando parla di questi argomenti, perché c'è tanta gente che non merita sicuramente di essere rispettata, però dopo lui paga il pedaggio, ecco. Allora va su tutti i giornali, illustrano Francesco Totti come un personaggio non piacevole, e questo non è vero, e questo non è giusto. È chiaro, ci vuole prudenza. Senta, mister, le chiedo ancora, in questi giorni ritorna al calcio quello che è stato un suo grande avversario anche in tanti derby della capitale, Zenek Zeman, che torna dopo 16 anni alla guida del Foggia. Che impressione le fa questo ritorno? Intanto accolgo l'occasione per dargli bentornato, lo meritavi, è il minimo che potesse fare il calcio italiano. Faccio i complimenti ai dirigenti del Foggia, che non hanno dimenticato un grande personaggio, una grande persona, va bene? Perciò io gli faccio un affettuoso, e sarò come sempre, perché io sono sempre stato un suo tifoso, meno che quando si giocava Roma-Lazio, quando era Roma-Lazio era giusto che io tifassi per la Roma e lui allenava la Lazio e tifava per la Lazio. Ora una breve pausa, poi ancora insieme a bordo campo in compagnia di Carlo Mazzone. A bordo campo. E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha preso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore. Ancora insieme qui a bordo campo, nostro ospite Carlo Mazzone. Beh, mister, ci eravamo lasciati parlando di Roberto Baggio, che forse è stato il più grande dei campioni che sotto la sua guida sono rinati. Faccio riferimento anche ad altri grandi campioni come Beppe Signori, Materazzi, ma ora fra poco parleremo anche di loro. Beh, per Roberto Baggio si profila a questo punto un ritorno in grande stile nel mondo del calcio come direttore del settore tecnico della Federcalcio. Le chiedo, mister Mazzone, secondo lei Roberto Baggio fa bene a tornare in questo mondo che è stato per tanti anni il suo? Fa bene a tornare con questo ruolo e a rimettersi finalmente in gioco? Come hai visto, ho detto con continuità, meno male. Perché? Perché meno male? Perché il calcio italiano ha ripagato quella emarginazione che era stata fatta nei confronti di Roberto Baggio. Era stato dato per finito, morto e seppellito, tra la battuta, va bene? Io ho avuto il buon senso d'accordo col presidente Corioni, che è stato bravissimo a seguirmi sotto questo profilo, e abbiamo allungato la carriera di questo ragazzo che stava a casa, abbandonato da tutti. Adesso hanno riscoperto Roberto Baggio, meno male che hanno rivisto, qualcuno ha rivisto qualcosa che era veramente di una tristezza immensa. Auguro a lui, nell'assumere questo nuovo incarico, tanta soddisfazione e tanto piacere che possa compensare la tristezza, l'amarezza che ha provato in tanti anni. Mister, la nazionale volta pagina, ritornano in campo a dar una mano, insomma, grandi campioni anche del passato con la loro esperienza. In panchina Cesare Prandelli al posto di Marcello Lippi. Alla luce della sua esperienza, è il cambio giusto? E ci spieghi perché a Sudafrica 2010 è arrivato questo fallimento, che neanche lei si aspettava, perché ho letto che sul libro, insomma, era comunque fiducioso. Sì, ero fiducioso come sempre, perché io ho detto sempre che noi italiani diventiamo pericolosi e diventiamo forti quando veniamo sottovalutati e mortificati. E noi in effetti si era verificato, però ragazzi, ci sono mancati pronti via, ci sono mancati giocatori importanti sotto forma di infortuni come Buffon, come Pirlo e tanti altri, su Nesta, lo stesso Totti, e avremmo potuto fronteggiare, diciamo, questi mondiali in un altro modo. E poi dobbiamo anche prendere visione che il calcio italiano in questo momento, sotto il profilo finanziario e automaticamente si sviluppa poi sul mondo tecnico, siamo in un momento di difficoltà. Dobbiamo aguzzare la mente, dobbiamo aprire i settori giovanili, dobbiamo dare spazio ai giovani, dobbiamo avere coraggio di far giocare i giovani, va bene? E senta, Prandelli può essere l'uomo giusto per guidare questa rinascita in un momento così difficile? È l'uomo giusto perché innanzitutto è una grande persona che gli voglio bene come un fratello, veramente. Mi lascio andare a questo perché ha vissuto dei problemi personali di grande tristezza. Mi auguro che trovi la forza, diciamo, del mio calcio di dimenticare, non credo che possa essere possibile, ma che possa avere qualche soddisfazione in più di quello che ha avuto finora. Le chiedo, mister, ha visto la Rai ha deciso di mettere un po' il silenziatore o la museruola, scelga lei il termine più adatto, alla moviola, no? Dal prossimo anno, dalla prossima stagione, una moviola più ragionata, più pacata, senza le polemiche abituali, e un'analisi degli eventi tecnici della partita spiegata anche dagli arbitri. Crede che questo progetto si riuscirà ad attuare ed è in linea di massima d'accordo con questa decisione? Beh, io sì, perché sembrava che eravamo un gruppo di cani arrabbiati finita la partita per chi aveva subito magari l'episodio, quello, tutti avvisionati su episodio, se il rigore c'era, non c'era, se era dentro l'area, non era, o fuori, se c'era la mano, la volontarietà, tutto quanto, e c'era veramente una guerriglia. Ecco, adesso penso che ci sia più serenità, un giudizio più sereno, e dimostriamo di essere gente per bene, matura, e accettiamo quello che vediamo, va bene, perdoniamo l'arbitro se ha sbagliato e non andiamo oltre, perché diventa una caccia all'errore e con tutte le polemiche. E sembrava che più che la partita dei 90 minuti aspettavamo tutti il post gara a visionare gli episodi e cerchiamo di scaricare la nostra attenzione, diciamo, su episodi sportivi che non dovrebbe essere così, insomma. Ecco, io mi auguro che tutto questo funzioni e che ci sia tanta serenità nel vedere il visionare insieme agli addetti lavori gli episodi che si sono verificati in campo. Senta, uno che contribuiva un po' ad accendere il dibattito, ad accendere gli animi, era sicuramente José Mourinho. Ci mancherà? Che stagione sarà? L'anno 1 senza Mourinho del campionato italiano, secondo lei? No, Mourinho ha vinto, è stato bravo, però non ha capito, è caduto nella trappola, tra virgolette, del calcio italiano, che effettivamente anche per lui c'è stato un trattamento particolare che io non ho mai condiviso. Però diciamo che i responsabili sono due, coloro che hanno affondato nelle critiche e nella critica sul personaggio, è lui che non ha capito che avrebbe dovuto essere più sereno e non cadere nella trappola della provocazione. Uno che invece mantiene sempre la calma e che ci piace molto per il suo stile, la sua capacità di analisi, la sua lucidità, il suo aplomb, è Pep Guardiola, no? L'allenatore del Barcellona che è stato suo giocatore a Brescia. Ce la racconta quella telefonata prima della finale di Champions League di Roma del 2009, Barcellona-Manchester United, Barcellona che vince 2-0, alla vigilia suona il telefonino di Carletto Mazzone. Stavo a casa io e... era il pomeriggio e pronto Gian Mazzone, sì, chi è? Sono Peppe Guardiola, io Garibaldi. Io dissi, poi ci sta battuta, perché ogni tanto qualche mio amico si diverte a fare qualche scherzo così per far trovare, allora lui rimase un attimo, ci fu una pausa sua, mi disse guardi che sono veramente Peppe Guardiola. Allora io detto in una forma molto molto serena, allora hai detto: oh Peppe, mi devi scusare perché ci sono degli amici che mi fanno gli scherzi, dimmi tutto Peppe, come stai, bello, e così entriamo nel vivo della telefonata. Io ti faccio i complimenti, mister, guardi, io però adesso ti devo dire una cosa, dimmi Peppe, guardi che io ho telefonato a lei perché lei adesso mi deve fare un regalo. Ma dimmi Peppe, che ti posso fare io? Non lo so, dimmi. Lei deve essere presente alla partita. Ma non va bene se io guarda, già se mi sono organizzato, io la vedo televisione, no? Io ti faccio il tifo da lontano, ma tu il tifo è solo per te. No, mister, lei deve venire, io devo sentire la sua presenza fisica all'Olimpico. Se lei viene sono sicuro che noi vinciamo. Oddio mio, mo tu mi metti in difficoltà. Guarda, mister, ho già telefonato a Edo. Edo è un amico comune ed è segretario del Brescia Calcio, che è un carissimo amico suo e anche mio. Lui verrà a Roma a prendere i biglietti e poi tutte e due vi voglio in tribuna, dopo festeggiamo, dopo la partita. Oddio, ho detto vabbè, ho capito, ma invece di pensare alla partita tu ti metti a pensare a me, sì, io penso a lei. Beh, che cosa straordinaria. Quindi insomma un pezzetto di quella Champions League e anche di Carletto Mazzone. Direi un rapporto straordinario, così come quello che l'ha legata a Costantino Rozzi, il presidente dell'Ascoli che ha segnato la sua vita. Ci regala un'immagine, un ricordo di Rozzi, di un vostro momento privato? Un momento privato è stato quando a un certo punto io ho avuto un incidente gravissimo, la frattura della tibia in un derby Ascoli San Benedettese, e ho smesso di giocare, e lui è la prima cosa che ha fatto, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore del settore giovanile e poi la prima squadra. Prima di darmi la prima squadra mi chiamò e mi disse che lui aveva deciso di darmi la prima squadra. E allora io, e poi mi disse se me la sentivo, ho detto guardi Presidente, io me la sento, e allora tutto a posto, ho detto dimmi che c'hai, qualche cosa, guarda è chiaro che lo stipendio ti sarà aumentato lo stipendio da adesso. Io in quel momento ero out, e allora lui mi offriva di fare l'allenatore del settore giovanile. Allora io gli dissi, Presidente, guardi, la ringrazio veramente di cuore, sono contento, accetto senz'altro, e così ecco, e ci siamo avventurati. Lui come Presidente, che era diciamo al battesimo, e io come allenatore, che ormai ero un ex giocatore, che non avevo la possibilità fisica di giocare, e lui, e iniziamo questo tandem, chiamiamolo, no? Dopo 5-6 domeniche mandò via l'allenatore della prima squadra e mi disse: Carletto, guarda, fammi il piacere, perché non si vince mai, la squadra non va bene, prendila te. E io dal settore giovanile passai in prima squadra. Questa situazione si è verificata 2 o 3 volte. L'ultima volta che capitò fu una mia fortuna, perché in un momento di grande difficoltà dell'Ascoli mandò via un altro allenatore e mi disse: guarda Carlo, adesso tu mi fai il piacere, mi guidi la squadra, da adesso mancano 7-8 partite alla fine, tu mi fai queste 7-8 partite e ti do la notizia, l'allenatore dell'Ascoli il prossimo anno sarai tu. E io faccio una pausa, c'è una pausa e io, c'è qualcosa che hai da dirmi? Presidente, io non so niente, per quello dice, non ti preoccupare, lo stipendio so che hai bisogno, c'hai due figli, tutto quanto, ti farò l'aumento, non ti preoccupare. C'è qualche cosa, io dico, presidente, senta una cosa, una sola cosa gli chiedo io, a me se non concesso che le cose non vadano bene, mi auguro che vadano bene, sarei felicissimo proprio per lei. Ecco, dopo mi rimanda a allenare il settore giovanile? Sì, senz'altro, dice, ma perché mi chiedi questo? Perché sa, perché io insomma non ho fatto una grande carriera e vorrei rimanere nel mondo del calcio vicino a lei, io mi auguro di fare bene la prima squadra e eventualmente, non ti preoccupare, ha detto, non solo ti lascio il posto, per te, quel posto lì è tuo, ma tu, io ti lascio il posto, quello più importante, quello, tu devi diventare allenatore dell'Ascoli, va bene, è punto e basta, per quell'altro non ti preoccupare, finché ci sarò io lo lascerò anche per eredità. Tu avrai un posto fisso nell'Ascoli, perché tu sei una brava persona e ho molta stima di te. E beh, insomma, storie di un calcio che forse non c'è più, ma che proprio attraverso i ricordi e la voce di Carlo Mazzone sopravvivono. Beh, io allora la ringrazio, mister, per il tempo che ci ha dedicato qui a Bordo Campo. Ricordo Una vita in campo di Carlo Mazzone con Marco Franzelli e Donatella Scarnati, per Baldini, Castoldi, Dalai. Insomma, se volete passare qualche ora di lettura piacevole sotto l'ombrellone, mister, non posso tirarmi indietro dal chiederle un pronostico. Chi lo vince quest'anno il campionato, chi la vince quest'anno la Champions League? In Italia mi auguro che la Roma riesca a fare una gradita sorpresa e l'Inter che vinca la Champions, sarebbe un bel duetto, sa? E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha preso ad un pallone. Beh, è stato veramente un grande piacere avere ospite qui a Bordo Campo Carlo Mazzone. Per la puntata di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete scriverci al nostro indirizzo internet a bordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Buona giornata da Dario Ricci.